Tempo di sport con Carlo Genta. Non so come la pensate voi e sono curioso di scoprirlo. 800 24 00 24 numero verde. Ma secondo me Marcello Lippi ha avuto l'ennesima enorme botta di culo della sua luminosissima carriera. Poi dice: non mi piace parlare di soldi, ma prenderli magari sì, perché 30 milioni di euro per 2 anni e mezzo di allenamenti alla squadra del Guangzhou, squadra di Canton, Cina, sono secondo me una cifra che vale il disturbo. Fabio Cantadori in redazione, Franco in regia, Franco Piantanida in redazione, siamo tutti in attesa di seguire le orme di Marcello Lippi e presentarci in Cina. Campionato cinese, nuove frontiere, magari non di altissimo profilo agonistico, ma benissimo ha fatto il CT campione del mondo, come dice lui, ad andare a rappresentare l'Italia, l'ha detto in conferenza stampa, nel continente più importante del mondo oggi. Ha confermato, dicendo che non ha piacere a parlare di vil denaro, confermando che il suo contratto arriva fino a novembre del 2014, ma spera di restare più a lungo. Ho avuto i primi contatti a maggio dell'anno passato, ci ho voluto pensare bene, ho cominciato a vedere la squadra, il presidente Liu mi ha raccontato dell'entusiasmo e della grande ambizione che aveva la società, nella persona del presidente Xu Jianyan. Deve aver fatto anche abbastanza fatica così a imparare a memoria il nome del presidente. Presentazione in pompa magna in uno scenario su un telone rosso che ricordava tanto una conferenza di partito. Mi domando che vita farà Marcello Lippi a Canton, mi domando anche che vita si fa laggiù, mi domando se sarà difficile per lui passare dai gabbiani di Viareggio, dalla bicicletta, dalla barca sempre pronta a partire per il mare. Ebbene, mi domando cosa troverà a Canton, anzi, non è che me lo domando, lo domando a un connazionale che a Canton vive da qualche anno e che certamente ospiterà a pranzo e a cena l'ex CT. Matteo Anzuinelli da Canton è titolare del ristorante Buongiorno. E allora dico buongiorno Matteo. Buongiorno. Salve. Dai gabbiani di Viareggio a Canton. Come la vedi? Tu che abiti lì da un la po'. Vedo un bel cambiamento, un po' il cambiamento che ho subito io 4 anni fa quando sono partito da una piccola città per venire a Canton a gestire questo ristorante per conto di una compagnia di italiani connazionali con partner locali che hanno dato il via a una catena di ristoranti dei quali io sono l'esponente di Guangzhou. Canton. Quindi posso dire che la città di Guangzhou è una città stupenda, bellissima, perché si ammira il futuro in una situazione molto, diciamo tra virgolette, semplice, molto terra terra. Perché? Perché vedi questa popolazione di persone dedita al sacrificio, al lavoro, che si buttano in questa futuristica situazione di sviluppo economico. Quindi posso dire che nella mia esperienza sono sicuro che il nostro campione del mondo sì. Si troverà più che bene. Si troverà sarà, più che bene. Senti, sarà sicuramente Matteo, tu hai visto da vedere. Sì. Hai visto la conferenza stampa di presentazione di Lippi? A me ha fatto una certa impressione in quello scenario, in quel telone rosso, mancavano solo la falce e il martello che non sono più di moda nemmeno lì. Beh, ho visto un Lippi molto concentrato e vedevo in lui quelle sensazioni che mi trasmettono un po' tutti i miei clienti quando vengono la prima volta in questa grande città e di conseguenza mi immedesimavo in lui in questa emozione di conoscere una cultura nuova che comunque sia è una cultura bellissima perché ti trasmette grinta, ti trasmette positività e allo stesso tempo ti stupisce la loro voglia di conoscere e di aprirsi al mondo occidentale. Sì. Quindi... Senti, un po' di grano lì gira, Tra l'altro Lippi troverà nella sua squadra il quinto giocatore più pagato del mondo, che non è una superstar internazionale, è un argentino. Che ha giocato a lungo in Brasile, che è cittadino onorario di Rio, si chiama Dario Conca e becca 10,6 milioni a stagione. Un po' di soldini come girano. Come dicevo prima, questa è la perla del mondo, ora è l'Asia, quindi di conseguenza è qui che gira tutto il potere economico mondiale. Di conseguenza. Un giocatore che ha delle prestazioni, delle qualità e si sente di dare di più, loro sono pronti a prenderselo in squadra subito. Senti, credo lui sia uno di questi. Sì. Senti Matteo, io ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo a campionato in corso, così magari ci io fai da corrispondente. Un grande in bocca al lupo al nostro campione del mondo Marcello Lippi e lo aspetto al nostro ristorante Buongiorno di Guangzhou. Se hai bisogno di un paio di camerieri, io e Franca Piantanita veniamo. Va bene, ti aspetto allora. Grazie a Matteo Anzuinelli che ospiterà, ne sono certo, Marcello Lippi a pranzo e cena ripetute volte, tanto di far pagare il conto credo non siano un problema. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, messaggi che sono già molti, 349 238 6666. C'è anche chi mi scrive: io penso che tu sia molto invidioso, oltre che anti-juventino dichiarato. Auguri a Marcello Lippi, l'unico allenatore italiano campione del mondo vivente. Allora, io sono molto invidioso, assolutamente sì, ma in maniera sconfinata. Anti-juventino non lo sono. Mi unisco invece agli auguri a Marcello Lippi, che è un amico e che a me è tra l'altro anche molto simpatico. Sono molto contento che abbia trovato questa opportunità, che non è ovviamente il massimo della vita dal punto di vista agonistico, ma è il massimo della vita da molti altri punti di vista. Antonio scrive: secondo me prima dell'Italia Lippi ha presentato ai cinesi Liban. Oppure Francesco: con 30 milioni si fa copiare Viareggio lì. 800 24 00 24. Tra poco vi parlo anche di un altro CT, non ex CT ma CT in carica. Questo lo farò tra poco, perché ieri ho sentito la più bella dopo anni e anni di questo lavoro, dopo anni e anni di passione, la più bella dichiarazione che mi sia capitato di sentire certamente negli ultimi anni. Intanto Lippi è chiaro che ha fatto pretattica, perché c'è Franco Piantanita che maliziosamente dalla redazione mi segnala una dichiarazione del 4 aprile 2012 dell'ex CT: allenare il Guangzhou in Cina non esiste nella maniera più assoluta, non c'è assolutamente nulla, zero, disse Lippi, che chiaramente faceva pretattica. O no, Moreno, provincia di Milano. Dottor Genta, buongiorno. A lei. Io ho sentito adesso che ha detto che Lippi è fortunato. Sì. Che Lippi sarà anche fortunato su me con l'ingaggio, però Lippi come allenatore, no, io l'abbiamo avuto tantissimi anni, è veramente bravo. Sì, no, ma è. Ma proprio veramente bravo, perché io mi ricordo campi in corso, è la prima Juve che giocava in un modo che sembra. Era. Ma no, ma benissimo. Ma guardi, Marcello Lippi è comunque un personaggio che ha molto diviso anche nel ruolo di commissario tecnico, secondo me. È un super tecnico, un super allenatore, ma d'altra parte stiamo parlando dell'acqua calda, stiamo scoprendo l'acqua calda perché è campione del mondo, ha vinto quello che ha vinto, quindi certamente non, evidentemente qui non aveva più mercato, no? Perché, oppure è impossibile resistere a questa proposta indecente, questo non lo so, però è stato a lungo lontano dal calcio, è chiaro, questo è altrettanto evidente, saluta al calcio che conta, perché il campionato cinese, la Champions League d'Asia è qualcosa di periferico dal punto di vista calcistico, però insomma io sono contento che trovi una nuova dimensione, ma credo che abbia fatto benissimo, ripeto, ad accettare questa proposta. Sentiamo qualcos'altro, qualche altra battuta dell'ex CT. Ho mandato recentemente un mio collaboratore per un mese qui in Cina, a Guangzhou, a vedere partite di China Super League, di Champions, a vedere le strutture, e poi vedendo la squadra mi sono convinto a venire a lavorare qua. Se è convinto andrà a lavorare lì. Fabio da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Signora, niente, volevo dire che per allenare delle squadre cinesi, con tutto rispetto, ci poteva andare anche mio cognato Ivano. E quindi... Però non so se suo cognato Ivano aveva il curriculum di Marcello, eh. No, non lo so, però voglio dire, Lippi ha fatto una scelta giustamente economica dal suo punto di vista e basta. Poi a me non è piaciuto come si è comportato quando è tornato in nazionale prendendo il posto di Donadoni, non è piaciuto come si è comportato all'Inter, quindi lo trovo un tecnico sicuramente di livello eccezionale. A livello umano non mi piace, anche perché comunque la sua famiglia era all'interno di un progetto insieme a Moggi, quindi non ho un bel... come posso dire, sì, una buona opinione. Una buona opinione, è un grandissimo allenatore, per il resto fa i suoi interessi, come fanno quasi tutti in questo paese, quelli con i soldi. Sì, ma Fabio, ma lei sarebbe andato o no? Avrebbe accettato nei panni di Lippi la proposta indecente oppure all'età, no? Io sì, ma io Lippi, sì. No, no, all'età di Lippi assolutamente no, mi sarei goduto la mia barchetta con i miei gabbiani, perché purtroppo non siamo immortali e quindi... Ah. Questo al di là non se ne fa niente, né lui né la sua famiglia. Beh, però torna a fare l'allenatore, più o meno. Sì, insomma. Ma in Cina non parlerà mai una parola di cinese, quindi le ripeto, mio cognato avrebbe allenato Ivano. In questa maniera. Ivano. Grazie, Fabio. Grazie a Fabio. Tra le altre notizie di oggi, che in realtà non sono molte, ci divertiamo così. Tra le altre notizie di oggi, l'ufficializzazione, ma anche questa era scontata. Almeno per una parte, quella di Montolivo, l'ufficializzazione di Montolivo al Milan. Con lui è ufficiale anche il passaggio in rossonero di Traoré, 27enne maliano del Nancy. Gli ultimi esperimenti tra il Milan e i francesi, o il campionato francese, quantomeno, non sono andati benissimo. Vado a memoria. Fabio Cantadori fa una faccia strana da milanista. Dorazò ti dice qualcosa? Beh, Gourcuff è poi esploso di là, non so, Dugarry, beh, l'ultimo Taiwo, che è facile da dimenticare, io credo, per qualunque milanista, Allegri compreso. Allora, prima di Luca da Treviso, invece, voglio farvi sentire, come promesso, la più bella in assoluto, Roy Hodgson. And with Alex Oxlade-Chamberlain, I think he's a very very exciting player. He's given one or two performances which have made quite an impression upon me, not least of all when Arsenal played Milan at the Emirates Stadium, and I was there live and saw how well he dealt with Pirlo and Ambrosini in the central midfield. Giuro, non riesco a smettere di ridere dopo aver sentito il CT della nazionale inglese, che è dal punto di vista economico probabilmente la nazionale più importante del mondo. Il più colossale affare calcistico sarebbe non Lippi a Guangzhou, ma la nazionale britannica in finale ai mondiali, chiedete a chi volete. Ebbene, il CT della nazionale inglese ieri ha detto di aver convocato il giovane Chamberlain dell'Arsenal, l'avete sentito, se avete tradotto da soli, se conoscete un po' l'inglese, perché ha detto: l'ho visto bene contro in Champions League all'Emirates, contro il Milan, in particolare contro Pirlo e Ambrosini. Pirlo e Ambrosini, cioè Ambrosini era in tribuna e Pirlo sapete anche voi dov'è, no? L'ho visto bene contro Pirlo e Ambrosini, ha detto così. Fosse stato il presidente dell'FA, la federazione inglese, l'avrei licenziato in tronco per questa dichiarazione, non so voi. 800 24 00 24, numero verde. Luca. Salve dottor Genta. Buongiorno. Volevo fare prima una mia considerazione sul caso Lavezzi, sì, e poi volevo una sua opinione. Aspetti che gliene dico una, Luca, sì. Sul caso Lavezzi. Allora, caso Lavezzi è una cosa, ma adesso c'è il caso Cavani, perché no, mi dicono di no, ovviamente dalla regia ci sono milanisti e napoletani, figuratevi voi. Però Cavani ha detto, insomma, i giornali avrete letti anche voi o qualcosa avrete sentito, Cavani è un caso al Napoli perché non c'è la Champions, c'è aria di... così, di un po' di maretta. Oggi ha detto a una trasmissione uruguaiana che che ha già detto al Napoli, ha già espresso il suo desiderio alla società di andare alle Olimpiadi. Voglio andare alle Olimpiadi, se me lo impediscono faccio un casino che neanche si immaginano e vado a Londra lo stesso. Dichiarazioni di Cavani. Poi ditemi se non esiste un caso Cavani. Dunque Luca, caso Lavezzi. Allora, riguardo a caso Lavezzi, io sono uno dei tanti tifosi, guardandolo da casa in TV, domenica scorsa ho fischiato anch'io da casa. Ma quei fischi non erano per... erano fischi d'amore, come dicono tutti, perché noi tifosi, dopo Maradona, lui è stato il nostro idolo. Sì. Allora, io dicevo questo... Lavezzi ha tutte le ragioni per andare via, nessuno lo obbliga a restare, però c'è una clausola, come dice il presidente. Sì. Riguardo a questa clausola, non vorrei che, tipo come la trattativa con l'Inter, noi non accettiamo contropartite. Se il Napoli deve fare una squadra, diciamo, di alto vertice, non ci interessano i vari Ranocchia, Bazzini, che sono calciatori che, diciamo, pure meglio Ranocchia, meglio Ranocchia o Aronica? No, sicuramente meglio Ranocchia. Ah, no, secondo me no, ma al di là di questo il Napoli secondo me deve pensare a sistemare la difesa a livelli che desidera, che poi sono quelli di vertice del campionato, di ambizioni europee, eccetera eccetera, quindi di qualche giocatore ha bisogno. D'altra parte mi pare che lo stesso presidente in pectore del Napoli, Diego Armando Maradona, ieri abbia dato il suo benestare alla dipartita di Lavezzi, dicendo che a Napoli ha fatto il suo tempo e che non può progredire più di così restando a Napoli, che ha bisogno di nuovi stimoli, eccetera eccetera. Quindi se lo dice Maradona vuol dire che Lavezzi, benedizione pontificia, e può andare, io credo, al Paris Saint-Germain, in linea di massima, perché Paris Saint-Germain quei 31,5 milioni è in grado di scucirli, senza stare lì con le contropartite, a discutere di contropartite tecniche. Pietro da Milano. Sì, buongiorno. Volevo dire che il signor Fabio, che mi ha chiamato precedentemente, ha ragione in parte. Lui dice che è un grandissimo tecnico, ma non è un grande uomo. Io direi che non è neanche un grandissimo tecnico, perché i grandi successi che lui ha avuto li ha avuti nella Juventus, e sappiamo con gli scandali che sono venuti poi dopo come si faceva a vincere. Devo dire che all'Inter, dove era l'occasione più rara per dimostrare di essere un grande allenatore, ha fatto uno scempio. Bergomi veniva dal più bel campionato che aveva fatto a fine carriera, l'ha silurato. Pagliuca era un grandissimo portiere e l'ha dato via parametro zero e ha fatto pagare 30 milioni e 30 miliardi per Peruzzi. Ha preso Fabio Macellari, ha preso Jugovic, ha preso Paolo Sosa e ha dato via Simeone. Cioè ha fatto veramente delle cose pessime. Nazionale diciamo che è stato un evento incredibile, un miracolo. I giocatori hanno dato il meglio di se stesso. Ho capito, però abbia pazienza, Pietro. Io sento parlare il tifoso in questo caso dell'Inter, e dunque non mi sorprende, insomma, questo intervento. Scusa, voglio dire l'ultima cosa: il comportamento che ha avuto nei confronti di un grandissimo uomo, un grandissimo campione come Roberto Baggio. Chiedete al signor Baggio l'opinione che ha di Marcello Lippi. L'ha fatto andare in Champions League vincendo lo spareggio col Parma a Verona in campo neutro. Gli ha levato le castagne dal fuoco e la riconoscenza che lui ha avuto da piccolo uomo e anche da piccolo allenatore di silurare Roberto Baggio. Chiedete al signor Baggio, che è una delle massime espressioni del calcio italiano, sia a livello umano che a livello Pietro, però mi perdoni, non mi pare che il trattamento di Capello nei confronti di Baggio sia stato diverso, non mi sembra che sia stato diverso nemmeno il trattamento di Conte nei confronti di Del Piero in questa stagione. Allora, tanto per chiarire, cari miei amici all'ascolto, non ho nessuna intenzione, neanche nessuna voglia di fare il vigile tra i rancori dei tifosi rivorosi, e Lippi è un grande allenatore, tre finali di Champions in fila e gli scudetti e il titolo mondiale, chi Lippi è e gli interisti, e Lippi invece è un brocco, un bidone, una persona spregevole. Non ho nessuna intenzione. Il palmarès di Marcello Lippi lo conoscete, secondo me è e resta un grandissimo allenatore. Quindi non mi va di fare il vigile della rabbia dei tifosi che si scambiano che vorrebbero avere la cassa di risonanza attraverso i messaggi SMS. Se volete chiamate, parliamo insieme. 800 24 00 24, numero verde. Ovviamente seguiteci, vi invito a seguirci attraverso Twitter e attraverso Facebook. Su Twitter è in atto una discussione tra noi e i tifosi. Lì si può, scrivete quello che volete. Ma se voi non avreste licenziato Hodgson per quello che ha detto, ma fatevi capire. Allora, ho convocato Chamberlain, giovane giocatore dell'Arsenal, perché a marzo l'ho visto molto bene all'Emirates contro Pirlo e Ambrosini. Ambrosini era in tribuna e Pirlo dov'era? I am in the Pinetina, sì, Italy, with Mr. Roy Hodgson. Sì. Mr. Hodgson, what's your name? Roy Hodgson. Certo. What? Roy Hodgson. È il suo nome. Roy Hodgson. Anche su questo corretto. Roy Hodgson. La corretta. Ok, Mr. And are you from Massachusetts? No. No, I'm from London. Londra. South Massachusetts? No. Or North Massachusetts? No, ha detto di no. South Massachusetts. Thank you, Mr. Hodgson. And Mr. Hodgson, sì. What's your job? Il lavoro. Ecco. My job? Che lavoro fa? I don't know. Beh, non lo sa. Ma come? In effetti non è chiaro. From the Pinetina, John Flanagan and Roy Hodgson. Roy Hodgson. Ha imparato. Roy Hodgson. Roy Hodgson. Ma non lo dice male. È il suo nome. Roy. Non potevamo esimerci, da Giacomo Mr. Flanagan e Roy Hodgson. Alessandro da Bologna, mentre Tevez ritira le scuse a Ferguson dopo quel cartello idiota alzato nella festa del Manchester City, ma Tevez fa fatica a smentire il suo quoziente intellettivo non altissimo. Alessandro. Sì, salve, buongiorno. Ho sentito che giustamente lei non vuole fare il vigile urbano, eccetera, però giusto per ristabilire un minimo di equilibrio dopo il delirio dell'interista precedente. Sì. Negare era, il valore... era un delirio interistico. Era un delirio molto interistico, appunto. Null'altro, poi le risparmio tutti i deliri ci sono via SMS. Immagino. Negare il valore di Marcello Lippi è ridicolo perché ha vinto dovunque è andato. Sembra ridicolo anche a me. In proporzione con le squadre che aveva. E guarda caso, l'unica squadra nella quale ha fallito è l'Inter, ma lì falliscono tutti a parte... In discreta compagnia. A parte gli anni anomali di post-Farsopoli. No, lascia stare Farsopoli, queste cose qui. Lasciamo stare queste cose, stiamo parlando di Lippi, siamo d'accordo nel dire che Lippi, la sua carriera parla, è un super allenatore, punto. No? Poi se stiamo ad andare su altri temi, ripeto, non ci sto, però mi pare che il curriculum di Lippi parli da solo, insomma, perché comunque non si può dire che in nazionale ha avuto congiunture astrali favorevoli, fortuna, questo allora può valere per tutti quei pochissimi, e voi sapete chi e quanti sono, e hanno vinto un mondiale con l'Italia. Dica. Sì, no, appunto, sono perfettamente d'accordo con lei, ma... semplicemente volevo dire che mi sembra che appunto siano forse una dozzina, una quindicina gli allenatori che hanno fallito nell'Inter di Moratti, e tra l'altro scaricare le responsabilità di una campagna acquisti sbagliata in quell'anno all'Inter è ridicolo, visto poi cosa hanno combinato i dirigenti dell'Inter in quegli anni e anche in questi ultimi anni che vediamo, quindi insomma credo che capisco e concludo la frustrazione di quel tifoso, perché ha sotto gli occhi a cosa è ridotta la sua squadra, sì, e il suo club e le prospettive future che sono vediamo cosa combina l'Inter sul mercato, vediamo quale squadra uscirà da questa estate, che penso per gli interisti sarà difficile e anche un po' strana. Va detto che gli acquisti che l'ascoltatore di prima ha menzionato, certo, erano stati suggeriti, consigliati da Marcello Lippi, e non mi è sembrata, non è stata certamente una campagna acquisti molto fortunata, nemmeno molto lungimirante. da parte dell'Inter, anche questo è un fatto. Intanto io mi becco del brutto rincoglionito del solo juventino, eccetera eccetera, perché è così, perché dovrei mettermi a fare il vigile in mezzo alla rabbia, secondo me davvero, davvero eccessiva, dei tifosi. Invece di fare il vigile, io parlo con il mio amico coach Dan Peterson, che è la superstar del venerdì, oggi anticipiamo al giovedì. Ciao coach! Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Cosa aspetti tu ad andare in Cina ad allenare come Lippi? 30 milioni per 2 anni e mezzo. Guarda, complimenti a Lippi se mi offrono così per il basket, anche la metà. Anche la metà. Ma secondo te ha fatto bene o ha fatto male? Fatto benissimo. Bene, ma d'accordo, siamo tutti d'accordo, coach. Tra l'altro anche Sandro Gamba diversi anni fa, insomma, gli era stata proposta la panchina della nazionale cinese e rifiutò. Assolutamente, Gamba, assolutamente. Senti coach, via ai playoff finalmente stasera. Ho letto i tuoi appunti, non hai voluto fare pronostici, ho letto quello che hai scritto sulla Gazzetta, non hai voluto fare pronostici, com'è sta storia? Al coach manca il coraggio più di fare pronostici. No, ma non volevo quest'anno, ok, proprio volevo fare il mio solito, nessuno mi ha chiesto, però hai capito, su questo più osservazione che pronostici, perché volevo citare un po' di persone che secondo me meritavano di essere citati, tipo Sacchetti, tipo Mazzon, tipo Milano, i giocatori chiari, Koch e compagnia. Quindi ho voluto fare più questo, mi è venuto più di cuore. Ho chiesto loro la Gazzetta, se sì, coach, va benissimo. Okay. Senti, scrivi che era Scavolini al quintetto base più forte d'Italia, confermi? Ti dico che se tu ti ricordi, Carlo, sono venuti a Milano e dopo un quarto con il quintetto in campo, 28-17 per Pesaro, e la partita era segnata, ok? Hanno dovuto far giocare ovviamente il secondo quintetto, lì Milano, se lo era sopra l'intervallo, mancava poco. Quindi loro, come tante squadre di playoff, molto dipende da quello che fanno i panchinari, ok? NBA, Eurolega, guarda Eurolega, guarda l'Olympiacos, con Papa Nicolao, con Slukas, con la gente che veniva dalla panchina, quindi diventano giocatori importanti. Se non hai i giocatori che tengono campo, questa è la storia, tengono campo, sei in difficoltà, ok? Quindi i titolari non possono nei tempi di oggi spesso fare 40 minuti filati, ok? Bisogna tirare fiato per 2 minuti, e quei 2 minuti chi va dentro per loro deve tenere campo e non avere un crollo verticale di rendimento sul tabellone, ok? Poi magari sono 4 minuti, e quindi Pesaro ha bisogno di questo. Se loro potessero far giocare quintetto base 40 minuti contro altro quintetto base 40 minuti, loro sarebbero forse favoriti per lo scudetto. Tanto al via stasera con Siena Varese, Sassari Bologna domani, Cantù Pesaro, che secondo me è la sfida più interessante anche per i motivi che ci hai spiegato, coach, e Milano Venezia si gioca alle 20:30. Trinchieri dice saranno gli ultimi playoff decenti, l'anno prossimo con 7 partite sarà una schifezza. Io sono d'accordo e vorrei fare una battaglia su questo l'anno prossimo. Io sono d'accordo con te e con Trinchieri. Già per me a 3 su 5 siamo al limite, sì. Anche in finale 4 su 6. Io penso che 3 su 5 e 4 su 7 siamo al limite. Ha detto Trinchieri cose di grande saggezza, cioè il tifoso non ha i soldi per andare a vedere 1 contro 8, 2 contro 7 all'inizio con le partite, dice, lui vuole vedere le partite che contano, che hanno un po' di dramma, queste cose qua. Sono d'accordo con Trinchieri assolutamente. Grazie coach. Alla prossima. Grazie, amici sportivi, un abbraccio. Grazie. Ciao a tutti. Grazie coach Dan Peterson, ci fermiamo per il traffico, poi vi farò sentire anche il suo tweet della settimana, tweet del coach della settimana che è pure imperdibile. Stavamo parlando di basket nella notte, nei playoff NBA c'è Oklahoma che ha battuto i Lakers questa volta allo sprint 77-75, e Boston che invece è andata a riconquistare il suo fattore campo vincendo a Philadelphia 107-91, 27 di Garnett, 24 di Pierce, 23 di Rondo. Già vi dicevo prima, ma l'anno prossimo ve ne accorgerete con Palla Spicchi, vorrei fare insieme a voi, devo studiare ancora i modi e i termini, però ci arriveremo da qui a settembre-ottobre, vorrei fare una battaglia durissima contro questa scelta della Lega, dei quarti di finale al meglio delle sette partite, e sto tutta la vita con Trinchieri, che ha detto vorrei che ci rendessimo conto, l'allenatore di Cantù, che ci facciamo del male da soli. Saranno gli ultimi playoff decenti di quest'era, perché con i quarti a sette partite l'anno prossimo penso si vedranno delle schifezze e palazzi semivuoti, perché una famiglia non si può permettere biglietti per quattro gare in Serie 1 o 8 per partite con meno appeal. E poi che roster dovremmo avere con 21 gare in 30 giorni, dopo averne già fatte 65 in stagione regolare? Vuol dire, aggiunge Trinchieri, che avremo due squadre e andremo a Villar Perosa a luglio a fare Juve A contro Juve B. Quindi una sciocchezza così grande davvero non si poteva pensare, quella di annacquare il brodo dei playoff fino a sette partite insostenibili, insopportabili e noiosissime, come saranno anche quest'anno le finali per lo scudetto. Prima di Sebastiano da Bari, però, ve l'ho promesso, il tweet del coach non può mancare, di Peterson. Ok ragazzi, sono estremamente indeciso. È più liscia la porcellana o la pelle di Nicole Kidman? Penso che prima dobbiamo ringraziare il destino per averci fatto uscire senza alcun danno da tutte le nostre avventure, sia da quelle vere che da quelle solo sognate. Costan Peterson ha un debole assoluto per Nicole Kidman, magari anche Sebastiano da Bari. Buongiorno. Sì, buongiorno. Le piace, allora, piace anche a lei Nicole Kidman? Tanto, c'ho mia moglie accanto ma non lo posso dire. Senta, dica. Volevo parlare di Oxon, però prima volevo chiarire una cosa. È inutile parlare di Lippi, perché nel calcio conta il business. È inutile, lui è il business. 30 milioni di euro, lui andava anche a piedi. Ma sì, ma come tutti noi. Ma come tutti noi, e chi dice il contrario è un bugiardo. Bravo, bravo. E poi le volevo dire, Oxon, il calcio inglese, io lo vedo raramente in televisione perché per me è tutto un bluff il calcio inglese, ma questione di gusti, a me piace, no, a me diverte, certamente l'idea di prendere Roy Oxon come CT in questo momento, come CT, ripeto, della nazionale di una delle nazionali più importanti del mondo, dell'Inghilterra, a me sembra un'idea quantomeno bizzarra. A me sembra un'idea quantomeno bizzarra. Poi, dopo queste dichiarazioni, sinceramente, mi convinco sempre di più. Pronto? Niente. Ah, la moglie ha staccato gli ha rubato il telefono la moglie a Sebastiano da Bari. Andiamo al Giro d'Italia. Voci dal Giro. Domani annunceremo il nome del vincitore del nostro concorso, annunceremo il nome di colui che la tappa del 20 la vivrà a bordo dell'ammiraglia della Liquigas. Intanto la domanda di oggi per vincere il polsino con autografo di Ivan Basso è questa: chi è stato il più giovane corridore a vincere il Giro d'Italia? 349-238-6666, saluto Pier Augusto Stagi, ciao Pier Augusto. Ciao Carlo. Ieri tappa interminabile, anche perché di una noia mortale, eh? Oggi sì, sì. Una tappa corta, secca, magari un po' più divertente. Ma probabilmente lo sarà nel finale, perché la strada, diciamo, che dovrebbe indurre i corridori a usare, ci sono diverse strade, soprattutto ci sono diverse discese ripide e molto tecniche. Qualche corridore rischierà qualcosa perché non è magari tanto bravo a guidare il mezzo, e tra questi Ivan Basso, che stamattina era un po' serioso, ho parlato con lui, era un po' teso, se lui sente di più le tappe con le discese che quelle con le montagne, perché sulle montagne lui vola, sì. Lui vola e quindi si trova a suo agio, il suo territorio, il suo ambiente, il suo habitat. Invece nelle tappe un po' nervose, brevi, secche, dove ci sono soprattutto discese ripide in prossimità del traguardo, lui non si trova a suo agio, e questa è una di quelle tappe. Logicamente chi vince un grande giro deve saper andare su tutti i terreni, se la deve cavare, e oggi deve superare questo scoglio, che per molti corridori non è uno scoglio, per uno come lui sì. Non è difficilissimo indovinare i pronostici di questo giro. Ad esempio, la tappa vinta l'altro giorno da Joaquin Rodriguez, che ha preso la maglia rosa, immagino venisse data quota stracciata. Oggi che succede secondo te su quell'arrivo? Ma intanto io credo che Joaquin Rodriguez e Michele Scarponi qualcosa cercheranno di inventarsi anche oggi. Non penso per vincere la tappa, penso di piuttosto che per la tappa proveranno corridori tipo Damiano Cunego, Giovanni Visconti, Oscar Gatto, questi atleti che hanno il guizzo, la capacità, l'abilità di buttarsi giù a capofitto, però anche alle loro spalle gli uomini di classifica penso e spero che non stiano a guardare, proprio per questa ragione, perché lo sanno tutti che ci sono corridori che potrebbero perdere quei 20-30 secondi che tornano utili, bisogna portare fine in cascina. Joaquin Rodriguez lo sa benissimo, perché sa che da sabato comincia un altro giro. Comincerà il giro dei passistoni, di quelli che sanno urinare i lunghi rapporti per ore e ore e ore. Tra questi appunto Ivan Basso, Frank Schleck, se starà bene, se saprà recuperare. Non mi sembra stia benissimo, perché ieri è riuscito a perdere dei secondi preziosi anche su un arrivo su cui non c'era molto da dire. Pier Augusto, grazie, ci sentiamo dopo per sentire dal tuo racconto come andrà a finire questa tappa del Giro d'Italia oggi interessante. Grazie per Augusto Staggi. Allora, al postino di Ivan Basso lo vince Ruggero dal Lago d'Iseo, che risponde correttamente, non Cunego come hanno risposto molti ascoltatori, ma Fausto Coppi è stato il più giovane vincitore del Giro d'Italia nel 1940, aveva 20 anni e mezzo. Ci fermiamo qui naturalmente, torniamo domani pomeriggio con Palla Spicchi per parlarvi ovviamente dei nostri playoff, ma anche di quelli americani, nostri all'alba, quelli statunitensi già iniziati da un po'. Dunque grazie a Franco Piantanide in redazione, a Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo domani alle 2, ciao a tutti.